Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi il nostro focus si concentra tutto sui talenti. La protagonista di questa puntata, pensate, vi ha addirittura dedicato la tesi di laurea. Voleremo in Germania per raccontarvi la sua storia. Una carriera nel settore della comunicazione, master ed esperienze internazionali alle spalle, eppure il suo profilo in Italia era considerato carta straccia. Ma che paese è? Un paese che rifiuta i suoi professionisti dal curriculum più globale? Non perdetevi la puntata di oggi, la dedichiamo ai tanti giovani che sognano un futuro nel mondo della comunicazione, che magari vanno all'estero e che quando tornano vengono accolti così. Mi sento rispondere che c'era il blocco delle assunzioni o che appunto ero troppo qualificata, non sono stati incentivi a tornare. Anzi, tutto il contrario, no? Tutto il contrario, sono scappata. Francesca Masia, 30 anni, è account manager alla multinazionale Havas, sede di Francoforte. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Politica per cominciare, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legislativo sulla riforma dell'apprendistato. Lo scopo è trasformarlo in modalità di ingresso nel mercato del lavoro, tre tipologie di contratto previste, con l'obiettivo di renderlo operativo entro luglio. Dall'opposizione il PD ha invece messo a punto un DDL per le nuove generazioni che prevede una dote personale di cittadinanza che assicuri ai neomaggiorenni una somma di 27.000 euro per attività lavorative o di studio. Nel mercato globale è un dovere non solo attrarre i talenti, ma anche tenerli, così che il prossimo Google non nasca in India o in Cina. Così il presidente americano Barack Obama. Sei talenti italiani che hanno avuto successo all'estero sono stati gli unici ospiti esterni alle assise generali di Confindustria svoltesi a Bergamo. Ci racconteranno perché lì ce l'hanno fatta e qui no, ha spiegato la presidente Emma Marcegaglia. Capitolo stipendi e professioni. L'Italia resta in fondo alla classifica OCSE sui salari, pur salendo al 22esimo posto e superando la Grecia. Lo stipendio netto di un singolo in Italia è di $25.155, 5.000 sotto la media europea. Questo anche a causa di un carico di tassazione in continua crescita, 46,9%. Vengono definiti lavoratori professionisti, ma risultano essere poco autonomi, spesso soggetti a uno stringente orario di lavoro, mal pagati con contratti a tempo piuttosto che a risultato. È la fotografia dei professionisti italiani scattata da Ires e CGL. Circa l'80% degli intervistati ha una laurea, ma per il 44,6% il reddito annuale non supera i 15.000 euro. Per la Camera di Commercio di Milano la crisi ha peggiorato il tenore di vita di un professionista su tre. Non va meglio per praticanti e stagisti, sempre per l'IRES, quasi la totalità di loro è insoddisfatta della retribuzione. La metà uno stipendio non lo riceve proprio, la loro età media sfiora, pensate, i 30 anni. Costruire una rete di reti, il networking come elemento di sviluppo e promozione del sistema Italia, questo è il titolo del convegno svoltosi mercoledì al Forum PA che ha coinvolto rappresentanti delle associazioni di professionisti italiani all'estero, tra queste l'Associazione Funzionari Italiani presso le organizzazioni internazionali. Benedetto Gorini del Comitato Esecutivo sottolinea il grosso problema della nostra elite di funzionari all'estero. In questo momento c'è una grande attenzione dell'Italia a favorire le carriere nelle organizzazioni internazionali, non ce n'è probabilmente altrettanto, bisogna sviluppare più attenzione in aiutare i funzionari poi a rientrare e reinserirsi nel sistema paese in Italia. Questo forse è il vero nodo critico, cioè la possibilità di rientrare una volta accumulata esperienza internazionale? Assolutamente. Quanto è presente o crescente anche la presenza di giovani tra i funzionari italiani che lavorano per organizzazioni internazionali? La presenza italiana è sempre stata di ottima qualità. Secondo me gli italiani sono sempre più attirati a questo tipo di carriere perché in qualche maniera offrono la possibilità di prendersi responsabilità molto presto nella propria carriera professionale. In qualche maniera questo non è così facilmente ottenibile in una carriera pubblica in Italia. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo. Un economista alla Banca Centrale Europea, sede di Francoforte, scadenza per i CV 18 maggio, info su ecb.int. Una communication officer all'Alpine Space Program di Monaco di Baviera, scadenza per i CV 18 maggio, info su alpine-space.eu. E infine uno scienziato senior nel campo della bioinformatica per il Civil Service britannico, scadenza per i CV 19 maggio, info su civilservice.gov.uk. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Germania per raccontarvi la vicenda di una giovane professionista che voleva sfondare nel settore della comunicazione. Obiettivo raggiunto, oltre le Alpi, però. Nome: Francesca. Cognome: Mattia. Età: 30. Città di origine: Roma. Studi: Scienza della comunicazione. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2007. Per andare dove? A New York. Perché? Per conseguire un Master in Business Administration. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono Global Account Manager in un'agenzia media. Dove? A Francoforte. Tornerai? Mi piacerebbe, ma non per ricominciare da zero. Roy Paci, Gastarbeiter, per ricordare quella che è stata l'emigrazione italiana in Germania, quella storica. Ma ora ce n'è una nuova fatta di giovani che nella locomotiva d'Europa trovano quelle opportunità troppo spesso negate in Italia. Nel bel paese può persino capitare che i selezionatori, a chi prova a rientrare con master ed esperienze di lavoro internazionali alle spalle, rispondano: ma cosa pensi di venire qui a lavorare con il presidente come facevi a New York? Se ti prendiamo qui devi spalare fango. Così Francesca ti sei sentita rispondere prima di dire goodbye Italia e trasferirti in Germania. Parafrasando una nota canzone, verrebbe da dire: ma chi ci ha ridotti in questo stato? Hai una risposta, Francesca? Io credo la precarietà del mercato del lavoro, l'incapacità di innovare e sicuramente la gerontocrazia non aiutano a innescare il cambiamento culturale di cui abbiamo bisogno. Iniziamo come sempre dai tuoi studi. Ti iscrivi nel 1999 a Scienze della Comunicazione. Tu volevi diventare giornalista, poi però gli anni di studio ti hanno fatto deviare su un altro settore. Raccontaci. Sì, da adolescente leggevo moltissimo e credevo nella missione del giornalismo di sensibilizzare le coscienze. Ho fatto un po' di gavetta, poi mi sono appassionata alla pubblicità, sempre intesa come public service advertising, e quindi da lì ho pensato di iniziare in quel settore. Affronti anche un Erasmus a Parigi che ti apre le porte del mondo, ed è importante nel tuo caso però parlare nello specifico della tesi di laurea, il talento come parabola. Questo è il titolo. Il talento è innato oppure va coltivato? Entrambi. Diciamo che quello manageriale si può apprendere. Io studiai diversi progetti di valorizzazione del talento che le aziende stavano cominciando a mettere in atto anche in Italia sul modello americano. Ho anche scoperto che i talenti venivano mandati dalle loro aziende a fare un MBA all'estero, e da lì mi è venuta l'idea di continuare a studiare. E l'Italia sa coltivarli i suoi talenti anche nelle aziende? Ho incontrato casi di successo, però in tutti il top management era giovanissimo, aveva alle spalle un'esperienza internazionale, quindi forse proprio i cervelli all'estero possono innescare questo cambiamento in Italia. Speriamo. Ti laurei nel 2004, nel complesso che bilancio dai dell'esperienza universitaria? Ci vorrebbe maggiore interazione con le aziende, far lavorare gli studenti su progetti che possano essere inseriti nel curriculum, forse introdurre dei consulenti di carriera come negli Stati Uniti. Dopo la laurea il tuo obiettivo è andare all'estero, sull'onda dell'Erasmus decidi che il tuo futuro è un MBA a New York. Obiettivo tra l'altro in teoria semplice, no? Dici: io mi formo, studio, lavoro a livello internazionale e poi rientro in Italia. Paradossalmente la seconda parte di quel desiderio è quella che poi si rivela la più impossibile, no? Io ho cercato lavoro tra gli Stati Uniti e l'Europa e avevo, diciamo, l'impressione che tornando in Italia poi non sarei più potuta ritornare all'estero se avessi voluto. Però ho lasciato le porte aperte e quando sono arrivati i contatti giusti poi le risposte sono state: abbiamo bloccato le assunzioni, sei troppo qualificata, costi troppo perché hai fatto un MBA. Quindi onestamente mi sono concentrata di più sull'estero. Giustamente. Mentre attendi però l'ammissione all'MBA a New York e ti butti nel mondo del lavoro italiano, prima un impiego nell'ufficio stampa della facoltà, poi uno stage nel settore pubblicità di una multinazionale automotive, sempre a Roma. Parliamo allora della valorizzazione del talento alla luce delle tue esperienze italiane. L'hai vissuta o no sulla tua pelle? Paradossalmente l'ho vissuta più nella prima, l'esperienza all'università, che nella seconda, perché nella prima avevo proprio la responsabilità di creare un progetto da zero. Da entrambe ho imparato molto, però l'azienda era un posto troppo grande per avere visibilità e oltretutto c'era una politica di taglio dei costi. Le posizioni a tempo indeterminato erano state sostituite da stage. Dopodomani me ne andrò da questi lidi, cercherò asilo negli Stati Uniti e a Livorno è pronto già un battello che porterà lontano il mio cervello. Gappa, cervello in fuga, ci porta ora al 2007, quando finalmente arriva il momento di partire per gli Stati Uniti. Finito lo stage con un arrivederci e grazie, lasci l'Italia. Destinazione la Pace University di New York, MBA in Marketing Management. Siamo appunto nel 2007, prima però spiegaci, è difficile accedere a un MBA americano e come si fa? Occorrono due esami per accedere, uno è il TOEFL per l'inglese e poi c'è il GMAT, che è un esame di statistica, matematica, problem solving, sempre in inglese. E poi ogni università ha i suoi criteri di selezione che si basano sul profilo professionale, sugli anni di esperienza, sulla motivazione e sul, diciamo, fit del candidato con la cultura poi dell'ateneo. Una cosa molto importante che tu sottolinei dell'esperienza americana è il cosiddetto networking per trovare lavoro. Le provi tutte attraverso questo networking, arrivi persino a bussare porta a porta alle aziende per presentarti. Però prima spiegaci cos'è il networking all'americana e come si distingue dalla raccomandazione all'italiana. Uniti moltissime persone sono dove sono perché hanno incontrato i contatti giusti, quindi si crea una specie di circolo virtuoso in cui tutti sono disponibili ad aiutarsi. Ovviamente non è gratis, è una sorta di do ut des, ti aiuto perché mi potresti servire in futuro per motivi di business. In Italia ci si vergogna un po' a dire di aver trovato lavoro tramite qualcun altro, quindi questo circolo non si crea. Forse perché spesso questo trovare lavoro grazie a qualcun altro sottintende non sempre una capacità nel lavoro in cui si va appunto ad operare. La raccomandazione all'italiana in qualche modo mette in certi posti chi non ci dovrebbe andare. Sì, impossibile anche, succede. Nel maggio del 2007 finisci l'MBA, a quel punto inizia una serie di colloqui negli Stati Uniti e in Europa, sperimenti sulla tua pelle l'inizio della crisi, nata proprio quell'estate con i mutui subprime, ottieni proprio grazie al networking uno stage alla multinazionale Havas. Per occuparti di cosa, ma soprattutto come si rivela quella prima esperienza di lavoro? Quello è stato un colpo appunto di fortuna grazie al networking che avevo fatto. A New York mi occupavo di business development e di supportare il network nella preparazione delle gare internazionali. Dopo ben 3 rinnovi di quello stage, a novembre però purtroppo finisce, devi tornare in Italia altrimenti rischi l'espulsione dagli Stati Uniti. Tu pensi master e stage oltreoceano, qui mi accoglieranno a braccia aperte, e invece cosa ti senti rispondere? Mi sento rispondere che c'era il blocco delle assunzioni o che appunto ero troppo qualificata. A parte la parentesi sullo spalare il fango, diciamo non sono stati incentivi a tornare. Anzi, tutto il contrario, no? Tutto il contrario, sono scappata. E però per fortuna arriva dall'estero nuovamente il salvagente. La multinazionale Havas, presso cui avevi fatto lo stage, ti richiama, ti offre un lavoro in Germania. Per occuparti di cosa? Del coordinamento delle strategie marketing e media di uno dei suoi maggiori clienti internazionali, che adesso gestisco su oltre 65 paesi. Perché il passaggio dall'estero all'Italia comporta, come tu denunci, lo scendere qualche gradino? C'è poca flessibilità nel vedere il modo in cui una persona con un background internazionale può contribuire all'azienda. Credo che ci sia poca internazionalità nelle aziende. Nel corso di questi anni ho incontrato una quantità impressionante di talenti italiani con la T maiuscola espatriati, tutti con il mio stesso dilemma. In Italia si vive meglio, ma se poi torniamo che facciamo? Tu denunci. Ma che futuro ha un paese che riempie di interrogativi del genere il suo capitale umano più qualificato? Secondo me perde quello che è il motore dell'economia. Il resto è una società anziana. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Secondo me noi abbiamo il potenziale per attrarre i talenti dall'estero, invece di far scappare i nostri non lo sfruttiamo. Sta a noi cambiare le cose ed essere più proattivi, invece di aspettare che il cambiamento venga da una classe politica che è sicuramente non giovane. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Francesca Masia, trentenne responsabile delle campagne di comunicazione per la multinazionale Havas, sede di Francoforte. Francesca è arrivata a questa posizione dopo una laurea in scienze della comunicazione con specializzazione in comunicazione istituzionale ed impresa, un Erasmus a Parigi, una tesi dedicata alla gestione aziendale dei talenti, poi alcune esperienze di lavoro in stage in Italia, prima di approdare a New York per un MBA in Marketing Management. Un altro stage negli Stati Uniti, poi ritorno nel bel paese dove la risposta del mercato del lavoro è stata: abbassa le pretese, sei troppo qualificata. Alla fine l'agenzia newyorkese l'ha richiamata offrendole un impiego a Francoforte dove ora risiede. Ci raggiunge ora in linea Marco Muraglia, amministratore delegato di Starcom Italia, nonché membro del consiglio direttivo di Asso Comunicazione, l'associazione delle imprese di comunicazione italiane. Buon pomeriggio. Buongiorno. Muraglia, che effetto le ha fatto ascoltare la storia di Francesca? Non le sembra per certi versi un po' assurda una situazione del genere? Credo che sia abbastanza uno specchio di quello che la situazione generale dell'Italia, al di là del mercato specifico. Abbiamo sicuramente dei problemi strutturali, principalmente legati al mondo del lavoro e come ricaduta alla difficoltà economica in cui ci troviamo e a fatti strutturali che non aiutano nel contesto specifico. In un'email a giovanitalenti@radio24.it Francesca denuncia come in Italia sia difficile lavorare a livello internazionale perché moltissime aziende fanno capo a grossi gruppi stranieri. Quanto Made in Italy si gestisce in Italy? Lei si chiede. Io aggiungo, quante offerte di lavoro sono realmente trasparenti e contendibili sul mercato dell'impiego della comunicazione italiana? Con particolare riferimento al mondo della comunicazione, il fenomeno che viene evidenziato è quello chiave, nel senso che le aziende attive in comunicazione in Italia sono principalmente le multinazionali straniere, quindi con decisioni che molto spesso vengono prese oltre Alpe. I casi di headquarter italiano attivi sono sicuramente delle eccellenze, ma sono contenuti. mute. E sull'offerta di lavoro? Il mondo della comunicazione, nello specifico, risente di un problema strutturale che è la rigidità del mondo del lavoro in Italia, dove appunto in funzione del mito del posto fisso c'è una certa preoccupazione da parte delle aziende a fare degli investimenti, perché poi la flessibilità in momenti congiunturali è piuttosto complessa, quindi si cerca di fare ricorso a forme più flessibili che inevitabilmente vanno su persone più giovani alle prime armi. E quindi si crea un mercato duale dove i giovani purtroppo pagano le conseguenze. Sì, ora l'associazione... Ecco, voi cosa fate? Questa era una domanda che volevo porvi. Come Assocomunicazione cercate di aiutare i giovani a entrare nel mercato del lavoro? Programma di sostegno di formazione legato sia all'università sia degli altri istituti che formano professionalità nuove, anche legate al divenire del mercato. Stipendi, posizione e progressione di carriera. Muralia ci spiega perché appunto l'Italia sembra sempre tre passi indietro quando si tratta di valorizzare il talento, la risorsa, il capitale umano, mentre all'estero appena passano i venti della crisi sono pronti a offrirti una chance. Sicuramente c'è maggiore dinamicità e cultura. Cultura credo che sia la parola chiave, infatti credo che vada distinto come all'interno per esempio di multinazionali con una cultura di formazione la situazione italiana sia abbastanza simile a quella dell'internazionale. Il problema invece delle aziende italiane è che non esiste una grandissima cultura diffusa della formazione. E quali consigli si sente di dare a un giovane che vuole spendere il proprio talento nel mondo della comunicazione senza dover espatriare? Sicuramente oggi conviene concentrarsi su quello che sono gli ambiti o i comparti di nuovo sviluppo, quindi penso a tutto quello che è il digitale, in particolare l'online, perché anche con ritardo l'Italia lì avrà il suo sviluppo. Grazie a Marco Muraglia di Starcom Italia e anche Assocomunicazione. Per chiudere, domanda di rito a Francesca: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? Gli direi assolutamente di tentare, ma di cominciare già dall'università. Secondo me è necessario un po' di esperienza all'estero per la mia generazione, proprio per sviluppare anche uno spirito critico, cioè costruttivo, nei confronti dell'Italia. Italia. E poi speriamo ritornare e renderlo un paese migliore. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire la nuova immigrazione. Oggi andiamo nel Granducato di Lussemburgo, dove alla comunità storica degli espatriati italiani si va sovrapponendo negli ultimi anni la nuova immigrazione professionale dei giovani, con laurea e master alle spalle. Nel Granducato c'è un sito web che racconta la nostra comunità, Guglielmo Sessa, della redazione di Italiani.lu. Italiani.lu nasce nel 2007 dalla volontà soprattutto di unire le numerose presenze di italiani presenti appunto in Lussemburgo. La comunità italiana è la prima ad essere arrivata qui negli anni 50-60. Oggi conta iscritti all'AIRE, sono 23.000. Quanti ne stimate? Almeno il doppio sicuramente. Secondo l'Istat, il Lussemburgo è uno dei paesi all'estero dove la percentuale di laureati tra gli espatriati è maggiore. Sì, l'anno scorso ho assistito ad una conferenza proprio su questo tema, nella quale si parlava di un fenomeno tipico del Lussemburgo, ovvero l'immigration haute manque di fie, la chiamano qui. Che tipo di lavori fanno i nostri giovani espatriati? Per la maggior parte delle persone, essendo il fulcro economico dell'Europa e forse anche mondiale, sono banche e assicurazioni. E nonostante le piccole dimensioni del paese, continuano ad arrivare i giovani? Continuano ad arrivare e nonostante, dirò di più, nonostante la crisi, il Lussemburgo ha una politica di incentivo, insomma, all'assunzione dei giovani, dando dei contributi che arrivano al 50% dello stipendio al datore di lavoro. Lo Stato fornisce il 50% se hai meno di 30 anni ed è il tuo primo lavoro. E la selezione com'è? Credo che sia meritocratica, sicuramente più dell'Italia, anche perché non ci vuole molto. Tornando a italiani.lu, quali attività o iniziative promuovete attraverso il sito? Di cosa vi occupate, insomma? Italiani.lu ha al suo interno 60 circa associazioni italiane presenti sul territorio, quindi già di per sé si occupa di dare visibilità a tutti gli eventi che propongono le associazioni. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.italiani.lu.